programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale saluto da Filippo Glorioso, ben sintonizzati sulle frequenze di CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Potete seguirci anche sul sito internet www.crmpradio.it. Una giornata, come dire, piena di sole, con un po' di freschetto ancora la sera, insomma il clima non si è ancora sistemato, però si spera che si vada verso un clima primaverile, ma più che altro estivo. Notizie nulla di buono sul fronte occidentale, a parte il discorso dell'economia italiana che non riesce ancora una volta a decollare, ancora accise sulla benzina di 2 centesimi per dare giustamente da questo punto di vista un po' di ossigeno a quelle aziende zone terremotate che ancora subiscono i contraccolpi degli assestamenti delle scosse sismiche. Ci sono già 17 morti conclamati, si spera che finalmente si possa fermare questo sciame sismico e che si possa riprendere l'attività lavorativa. Molti dei capannoni industriali, anche multinazionali, c'è il rischio che appunto le multinazionali possono ritirare l'impegno in quella regione. Speriamo che così non è stato anche ieri sera il ministro del lavoro davanti alle telecamere italiane, delle televisioni nazionali, ad assicurare che il governo sarà presente e vigilerà affinché le multinazionali non ritirino i propri mandati verso quella regione, e quindi consentire ancora di più, ancora una volta, la possibilità di rientrare le maestranze al posto di lavoro e quindi che si possa ripartire presto. Anche in Lombardia e nelle regioni vicinore all'Emilia la scossa del terremoto pari al quinto virgola qualcosa grado della scala Richter, insomma si sono sentite le scosse, è stato il reverbero, per cui si sta un attimo ancora in apprensione. 14.000 le persone che sono sotto le tende, quindi c'è uno stato di tensione, ma è giustificata, nessuno vuole rientrare nelle case perché ha paura che se non finisca prima lo sciame sismico si possa rischiare ancora di più la vita appunto dentro le case, più che i lavoratori dei capannoni. Ci sono richieste in corso per capire come mai questi capannoni non siano stati monitorati per tempo, qualcuno ha dato la certezza che si potesse riprendere a lavorare tranquillamente, poi salvo poi accorgersi che questi capannoni non hanno resistito all'impatto ondulatorio e sussultorio del terremoto, quindi che ha causato altri 2 operai morti, uno dei quali era un nostro corregionale. Sugli altri fronti ci sono dei tagli da parte del governo nell'ambito militare, si parla del 30-35% in meno di alcuni generali che saranno messi a riposo e non ci saranno rincalzi, per cui l'economia italiana ancora sta cercando di far quadrare il cerchio. Poi avremo un appuntamento più tardi per quanto attiene appunto il lavoro e calzante con l'agenzia Trovo Lavoro, con abbiamo un ospite per la terza puntata, quella che è la dottoressa Marina Verderaime, ci ragguaglierà su alcune possibilità appunto da parte dei giovani di fare dei master lavorativi in diverse regioni italiane, ma soprattutto in Sicilia. Dicevo che la crisi morde abbastanza, molti negozi sono chiusi, alcune aziende hanno chiuso i battenti. Per fortuna fino ad oggi non sono arrivate notizie circa alcuni altri suicidi che sono aggiunti già a quelli che ci sono stati fin qui. Certo, le famiglie hanno grosse difficoltà a barcamenarsi tra un euro e l'altro, tra una spesa per la propria casa e le spese, compreso l'IMU, che è un'altra tassa aggiunta da parte del governo che penderà sulla testa di tutti coloro i quali hanno proprietà hanno in proprietà più di una casa. Dove andremo a parare? Non lo sappiamo, nessuno ha la bacchetta magica. Sta di fatto che l'Europa, Spagna, Portogallo da un lato, Grecia dall'altro, noi non stiamo certamente, stiamo meglio rispetto a Spagna, Portogallo e Grecia, ma non vediamo ancora il tunnel del chiarore che possa illuminare la parte terminale di questo tunnel. Speriamo che qualche cellula fotoelettrica possa darci maggiori ragguagli e farci vedere più chiaro circa il nostro futuro, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli. Detto questo, volevo invitarvi un venerdì, un sabato e una domenica, ma ve lo dico veramente con tanto cuore, di andare a visitare, siete ospiti graditissimi del signor Manannano, che è il nuovo gestore di un'azienda stupenda, un'azienda agroturistica. Stiamo parlando di un'azienda che da diversi anni è sul territorio, posizionata a 7 km da Castelbuono. Basta che voi veniate, se venite da Palermo, svincolate a Castelbuono, a 3 km sulla sinistra c'è c'è lo svincolo del luogo Marchese, così si chiama questa azienda agrituristica. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché intanto è veramente dentro un polmone verde, veramente potete permettervi di fare delle passeggiate, di fare degli spuntini sotto gli alberi, degli ulivi, delle querce e quant'altro. Poi c'è una bellissima piscina, anche lì un cocktail, un tropical, un drink a bordo piscina nel pomeriggio, in tarda serata, quando il tempo è clemente. Naturalmente fino ad oggi non è stato possibile perché il tempo non ha consentito ciò. Oppure fare delle bellissime passeggiate a cavallo, fermo restando che il signor Marannano mette a disposizione le camere che sono super accessoriate, con aria condizionata per quanto attiene l'estate, con il frigo bar all'interno, e poi è una terrazza veramente sulle Madonie, una terrazza veramente sul mare che è antistante, dista pochissimi chilometri, 3 chilometri. Pensate, chi vuole andare a mare e poi si vuole rinfrescare, basta fare 3 chilometri e siete subito mare monti, ecco, l'avete lì a portata di mano. La cucina, beh, ragazzi, a parte che qualche settimana partirà anche la pizzeria con prezzi straordinari per l'inaugurazione di questo centro. Luogo Marchese, ve lo ricordo, è sito del territorio di Castelbuono. Il signor Marannano, pensate, vi offre le pizze a 4 euro e poi per tutta la stagione a 5 euro, qualsiasi tipo di pizza. Ma bisogna andare a trovare questo luogo perché, a parte l'ospitalità, la gentilezza, la cortesia, la competenza di come viene gestito questo luogo, vi dà veramente la possibilità di vivere in un posto sereno e tranquillo, dentro un polmone verde delle Madonie, a contatto col mare a pochissimi chilometri. La cucina è locale, tipica e regionale, e poi soprattutto la cosa più bella è la possibilità di passeggiare a piedi, se volete, dentro la campagna che circonda il luogo Marchese. Le camere sono freschissime perché sono fatte tutte in pietra, e poi un posto molto ventilato, il mare a 3 chilometri. Cosa volete di più? Luogo Marchese, ve lo assicuro, è il luogo veramente per andarsi a rilassare e per vivere 3 giorni all'insegna del contatto con la natura. Andiamo avanti invece con Castelbuono, dove c'è un'altra possibilità in più per chi vuole ristrutturare casa sua e gli servono delle porte. Beh, 2M Porte che arredano, ma non è soltanto porte che arredano, vi fanno i mobili su misura, vi creano le porte fuori misura e soprattutto ci sono dei vantaggi straordinari. Porte in rovere massiccio, pensate, 600 euro incluso il montaggio. Tornando un attimo sul discorso lavoro, c'è da dire che ci sono delle situazioni. Più tardi sentiremo anche l'assessore al territorio ambiente, il nuovo assessore al territorio ambiente, l'onorevole Aricò, il quale è assunto da poco l'incarico di assessore regionale, è stato anche candidato sindaco. Lo ascolteremo su quelle che sono le possibilità che si possono avere nell'immediato futuro, soprattutto per i giovani, appunto nel territorio, e grazie all'ambiente, se ci può essere la chance di potersi giocare alcuni punti di alcuni come dire, centri di aggregazione per i giovani, per dare uno sbocco lavorativo in questo senso. Sentiremo quindi cosa è successo a Palermo per quanto attiene la politica locale, e poi parleremo con lui appunto di territorio e ambiente. Questo è il primo ospite. Il secondo ospite che abbiamo in trasmissione dovrebbe essere un famosissimo attore col quale parleremo di cos'è il cinema oggi in Italia, Nanni Moretti, che è stato riconosciuto presidente a livello europeo, presidente del Festival di Cannes, quindi c'è un riconoscimento ancora una volta nei confronti della cinematografia italiana. E poi dovremmo approfondire il concetto di tutte quelle piccole micro situazioni criminali che si stanno verificando. E da poco la notizia è che proprio qui a Cefalù c'è stata una rapina ai danni di un signore che stava facendo due passi, insomma, vicino a casa sua. Gli è stata puntata una pistola alla tempia, gli è stata puntata la storia alla tempia e gli è stato sottratto tutto l'oro che aveva addosso. Quindi una raccomandazione che fanno le forze dell'ordine è quello di girare sempre in luoghi affollati, di non rientrare mai tardi, soprattutto se le vostre abitazioni sono ubicate in periferia. E una cosa importante: non portate oggetti d'oro addosso, perché rischiate con la crisi economica che c'è, insomma, chiunque tra drogati, tra delinquenti comuni, si rischia l'incolumità personale per pochi spiccioli o per qualche collana. Detto questo, io do la linea alla regia, al ritorno vediamo se è possibile metterci in contatto con l'assessore Aricò per capire di più cosa si può fare in Sicilia per i giovani e per il lavoro. E allora rieccoci in studio. Intanto prego la regia di provare a rintracciare l'onorevole Aricò, che vi ricordo è il nuovo assessore regionale al territorio ed ambiente. Stavamo parlando di problematiche di criminalità. Dicevo, le forze dell'ordine stanno vigilando come meglio possono. Certo, non possiamo pretendere di avere un carabiniere, un poliziotto ogni cittadino, però una buona e sana prevenzione è importante, raccomandano soprattutto agli anziani che stanno in casa e sono da sole a non aprire a persone che non si conoscono, quantomeno quelli che si spacciano come impiegati dell'Enel o impiegati della posta. Fate attenzione soprattutto a non far entrare a casa nessuno di queste persone. Chiamate subito il 112 o il 113 di modo tale che possiate essere aiutate a capire meglio quello che sta accadendo attorno a voi. Per quanto attiene i più giovani, le donne soprattutto, che sono gli esseri più deboli, non portate con voi in borsa molti soldi, non portate con voi dietro gioielli, bracciali e quant'altro, perché oggi con i tempi che corrono purtroppo si rischia di subire delle rapine, di subire insomma delle aggressioni, e si spera bene che quando portano via soltanto gli oggetti e non finisce poi peggio con degli stupri, la cosa diventa veramente perniciosa. Nei nostri paesi ancora di montagna, grazie a Dio, questa criminalità ancora non si evince, ma nelle città c'è ancora questa possibilità. D'accordo, e allora dicevo, bisogna fare attenzione nelle campagne, soprattutto perché essendo state abbandonate, soprattutto sono dei casolari dove all'interno vengono custoditi degli attrezzi di lavoro, beh, oggi la criminalità mira un po' su tutte queste cose. Certo, non è un momento molto edificante. Stamattina i giornali davano ampio spazio anche al Vaticano sulla questione dei corvi o non corvi, e anche lì sta succedendo qualcosa di veramente straordinario, cioè gente che collabora con la Santa Sede, si parla di presidenti di banca dello IOR che è stato ghigliottinato, tagliato fuori, perché si dice e si pensa, cioè ci sono i sei, ma anche se uno scrittore ha pubblicato tutte le lettere, tutta la documentazione anche abbastanza pesanti su un libro, ed è scoppiato il bubbone. Il Papa proprio ieri durante la sua udienza ha risaltato il fatto che insomma la Chiesa è protetta dallo Spirito Santo, però ahimè bisogna che si protegga anche da persone che stanno all'interno. Si parla di diatribe tra cardinali, nel mirino c'è Bertone che è il segretario di Stato, cioè la seconda carica per importanza più in alto del Vaticano dopo il Papa. A parte che poi Bertone è stato fortemente voluto da Giovanni, da Papa Ratzinger, Benedetto XVI. Il capo espiatorio in questo momento è il suo cameriere di fiducia, il suo maggiordomo di fiducia, che è già sono sei giorni che sta nella camera di sicurezza della gendarmeria. C'è anche un contenzioso, grazie ai patti lateranensi, la gendarmeria del Vaticano sta indagando, continua ad indagare, ha arrestato questa persona, ma non possedendo delle carceri il Vaticano, è chiaro che deve poi appoggiarsi alle carceri italiane, quindi entra in gioco la giurisprudenza italiana e quindi non solo la magistratura che indagherà di concerto con la gendarmeria, ma anche le forze dell'ordine italiane. Quindi si paventa un giudizio che poi passerà in giudicato di questi presunti, fino ad oggi bisogna dire presunti, colpevoli di avere portato fuori segreti di Stato, e quindi si parla di tradimento, si parla di segreti che non potevano assolutamente uscire fuori dalle camere dei bottoni della Santa Sede. L'altra sera poi è stato intervistato il vescovo dell'Aquila, Monsignor Ercole, il quale è stato per moltissimi tempi, per 20 anni circa, all'interno della Santa Sede. E quindi diceva giustamente che anche i cardinali e vescovi sono uomini in carne ed ossa e quindi in quanto tali hanno tutte le pecche e i pregi di qualsiasi essere umano. Bisognerebbe non scordarsi però che si è consacrati, che si ha un'attività, chiamiamola lavorativa, che è un po' particolare rispetto a tutti gli altri esseri umani che fanno una vita molto molto diversa rispetto a quella che possa fare la vita che può fare un vescovo, un cardinale o un sacerdote. Di mezzo c'è l'attaccamento non soltanto a Santa Romana Chiesa, ma soprattutto l'attaccamento, il giuramento verso le dottrine cattoliche, verso Gesù Cristo, per cui bisognerebbe fare molta attenzione a non creare questi spiragli un po', chiamiamoli impropriamente demoniaci, che possono insinuarsi all'interno della casa di Dio, che sarebbe poi la Santa Sede. Come finirà quest'alta di Arriba non si sa, sta di fatto che però ci sono ancora indagini in corso, ci sono state delle interviste rilasciate da uno di questi presunti corvi, il quale ha detto che tutto è stato fatto nell'interesse della Chiesa, è stato fatto nell'interesse del Papa, perché ci sono dei personaggi, senza entrare troppo nei particolari, che tutto stanno facendo tranne che gli interessi dei medesimi. E allora la gente resta un po' sbigottita, c'è lo scandalo della politica, quindi i soldi che la politica si depaupera nelle tasche degli italiani per farsi delle gite, per fare del bancomat e quant'altro. C'è lo scandalo del calcio che lascia un po' basiti tutti quanti i telespettatori, tutti quanti gli sportivi, pensare che ci sono dei giocatori che vendono la partita ad altri giocatori, vedi la Sampdoria era messa nel calendario, ma non è soltanto la Sampdoria, ci sono giocatori che oggi militano nella Juventus, che sono stati uno sospeso, addirittura allontanato dalla squadra nazionale, mentre l'altro ancora permane nel ritiro e quindi giocherà, si presume, la partita contro la Russia, l'amichevole contro la Russia. Ovunque ci giriamo mi sa che c'è, per usare una frase già fatta da Benedetto XVI, si sta creando una seconda o una terza Babilonia, cioè non ci sono veramente più certezze matematiche su cosa è legale e cosa non è legale. Sta di fatto che in Italia molte cose legali diventano illegali, per cui la politica ha i suoi torti, lo sport, che poverino, non è che sono certamente dei morti di fame, guadagnano abbastanza, eppure non basta, bisogna creare delle logiche al di fuori come dire, della deontologia morale, per cui bisogna fare più soldi ancora, allora ci si vende le partite, si pareggiano, si perdono a tavolino, non c'è bisogno di giocare la partita, o quantomeno quando la si gioca si fa finta che non si è in forma, si perde la partita, perché poi c'è un circuito internazionale di scommesse e si arricchisce sempre il solito ignoto, ma soprattutto il solito furbo del quartiere. E anche lì non usciamo bene a livello internazionale, perché il calcio italiano viene guardato come vengono guardati gli italiani negli ultimi tempi, come gente capace di fare delle cose impossibili, possibilissime. E l'importante, come diceva Bete l'altra sera, che insomma rappresenta il calcio italiano agli alti vertici italiani ed europei, certo non si può fare tutto nel buon fascio, non si possono infangare tutti i politici, non si possono infangare tutti i calciatori, lo diceva anche Buffon l'altro giorno, ma a Buffon bisogna anche rispondere che i giocatori, chiunque essi siano, famosi o meno famosi, certamente non fanno la fame, ma guadagnano milioni e milioni di euro, anche se sono giocatori di secondo piano, ma certamente non vanno a prendere 1.000 euro al mese. Questo non, come dire, non è giustificato il fatto che poi si fanno questi accordi sotto banco per guadagnare ancora di più. Mi pare che stiano abbastanza bene i calciatori, se poi parliamo di prima, seconda e terza categoria, giustamente capisco che i soldi che percepiscono sono ben pochi, sono pochi spiccioli, allora lì verrebbe la voglia, non è corretto, ma verrebbe la voglia di farlo, ma non si può giustificare un politico che prende 30-35 mila euro al mese, non si può giustificare un manager che guadagna 100-200 mila euro l'anno, non si può giustificare un primario che guadagna i suoi soldi, cioè è gente quella che non può permettersi il lusso di fare tutte le nefandezze, tutte le porcherie che si fanno, cioè ormai la moralità è ridotta veramente ai minimi termini. Se a questo aggiungiamo poi che anche nella Santa Sede succedono delle cose incresciose, come dire, a torto o a ragione, beh, questo la dice lunga. Veramente il cittadino non capisce più da che parte stiamo, da dove stiamo andando, cosa dobbiamo chiedere, cosa dobbiamo aspettarci, a chi rivolgersi, se tutte le istituzioni sono voglio dire, lo sport che dovrebbe formare l'anima, che dovrebbe formare l'uomo, è così bucato, la politica che dovrebbe dare l'esempio, l'etica, dovrebbe insegnare l'etica, dovrebbe dare le direttive ad un paese, far rispettare le regole, sono i primi a non rispettarli. Se anche nella Santa Sede succedono questi fatti, beh, capite voi che i giovani di oggi, se hanno, come dire, le spalle larghe, se hanno delle idee chiare sul proprio futuro, lo devono sicuramente ai propri genitori, non certo alla società esterna che li circonda, perché ovunque giriamo col telecomando e facciamo zapping per capire meglio cosa succede nel mondo, beh, ci accorgiamo che in Italia tutto è possibile, tutto è consentito. Gli scandali sono all'ordine del giorno, e anche lì col terremoto, insomma, degli ingegneri, adesso sono notizie che vengono reverberate dalle televisioni nazionali, avevano dato la senso ad entrare nei capannoni e quindi a consentire ai lavoratori di riprendere a lavorare, salvo poi crollare. Allora, qua non si capisce veramente più in questo stato, in questo nostro paese, di chi, di come, di quando possiamo fidarci, ma soprattutto dove stiamo andando. È un marasma dappertutto, crescono i partiti come funghi, non si hanno dei punti di riferimento, non abbiamo, ecco, questo bisogna dirlo in maniera formale. L'altra sera un esponente, un collega, un eminente scrittore nonché giornalista, diceva che Papa Ratzinger non ha gli attributi di fare lo statista. È un grande pensatore, è uno che scrive benissimo, scrive dei libri straordinari, è un affabulatore meraviglioso, riesce ad attirare a sé milioni di anime, nel senso di uomini e donne che sono della fede cattolica e non solo, ma ahimè non riesce ad essere un buono statista, non ha i posti per fare lo statista. E la stessa cosa diciamo nel campo politico nazionale. Noi non abbiamo in Italia ancora oggi un leader che possa veramente aggregare tutte le componenti laiche e meno laiche di diversi schieramenti e far sì che si compattino per uscire fuori da una crisi che non ha termine, non ha fine, non avrà secondo me neanche tra due anni fine, perché se le cose continuano ad andare per come stanno andando, mettendo ancora accise, tasse eccetera, anziché far partire dei volani, è lì il discorso si ferma. E allora, quando uno chiede ai giovani: ma tu che futuro ti aspetti? La risposta è sempre la stessa: io ho fiducia nel futuro, ma i punti di riferimento dove sono? Non ci sono più punti di riferimento. Una volta c'era la chiesa, c'era lo sport, c'era la famiglia, c'era la scuola. Adesso in tutti questi casi, salvo forse la scuola, ma in tutti questi punti di riferimento non ci sono più, non ci sono più le ideologie. E allora, quando uno era democristiano era aggregato al partito della Democrazia Cristiana, l'altro era comunista, l'altro era di destra, e quindi si capiva bene o male come amalgamarsi, come barcamenarsi, c'erano le corporazioni. Ma oggi tutto questo purtroppo ha fine, e sinceramente, parlando in lungo e largo con la gente sgomenta, non sa più a quale santo rivolgersi. Aggiungiamo che ai punti di riferimento mancanti, per colpa di chi? Per colpa di nessuno, soprattutto la colpa è di tutti quanti noi, che in uno Stato come quello italiano facciamo di tutto e di più e come ci pare, e quindi le regole non ci sono più, sono saltate. Adesso non so la magistratura, il governo, tecnico o non tecnico, cosa potranno fare per sistemare tutta questa bandaran che si è creata in questi ultimi anni. Speriamo che il calcio possa tornare ad essere uno sport degno di tale nome, speriamo che la politica possa riprendere in mano le redini e la guida di questo paese, e soprattutto speriamo che la Santa Sede esca fuori con maggiore trasparenza, soprattutto per quanto attiene i conti della Banca dello IOR, ma che abbia all'interno delle persone che veramente siano cristiane e un po' meno segretari di Stato, un po' meno investiti di cariche istituzionali, siano quindi meno più terreni e più spirituali. Do la linea un attimo alla regia per qualche pausa pubblicitaria. Al rientro avremo in diretta radiofonica l'onorevole Aricò, che insomma giustamente aveva degli impegni, quindi abbiamo dovuto procrastinare di qualche mezz'oretta l'intervento di Aricò. Just a- Let's make arrangements. I'm your fix when you need maintenance. Call me crazy, awesome baby. I'ma take your love to the max plus 80. Such a wild boy, no need explaining. Love's worth money, you ain't got to pay me. Look me in the eye cause you want me, baby. Make you love me so much that you fucking hate me. I'ma fuck you, then fuck your friend. And fuck her cause I fucked the twin. Living life so pure with an inch of sin. Clear, no need to fear. Moving so fast that it's hard to steer. I hope we don't crash when we land in here. Being your best lover was the plan for years. Take it back to the time we were standing here. Girl. E allora Enrico Cinderetta sta ascoltando Carta e Penne, studio Filippo Glorioso, e dunque c'è una comunicazione ufficiale da parte di CRM Pirelli in collaborazione con Agisport, Rally Link e i media partner della 96esima targa Florio Rally Internazionale di Sicilia. CRM sarà collegata in diretta con i cronometristi e le varie postazioni sparse sul circuito del rally attraverso uno studio centrale situato all'interno di un gazebo appositamente allestito a studio radiofonico, ben visibile all'ingresso del villaggio del parco assistenza di Termini Imerese accanto all'ufficio stampa. La programmazione è così articolata: dal 4 giugno alle ore 13, dunque dal 4 al 13 giugno programma radiofonico, anteprima Radio Rally dalle 17.30 alle 18.30 escluso domenica. 14 giugno dalle 19 alle 22 circa diretta della partenza da Piazza Politeama e della prova spettacolo Bocca di Falco. Il 15 giugno dalle 7 alle 16 circa prova speciale per prova speciale in diretta dal circuito e dall'ufficio stampa del villaggio Rally di Termini Imerese prima tappa. Il 16 giugno dalle 7 alle 17 circa prova speciale per prova speciale in diretta dal circuito e dall'ufficio stampa del villaggio Rally di Termini Imerese, seconda tappa e arrivo. CRM è ascoltabile attraverso le frequenze terrestre RDS Radio Data System 101 e 400 MHz e in simulcast online su internet all'indirizzo www.crmpiredio.it e dallo studio del villaggio in web tv. Si ringrazia Kefa Motorsport nella persona del presidente Francesco Danna. Allora, mi raccomando, c'è l'ennesima edizione della Targa Florio, quindi sintonizzatevi, lo leggeremo spesso questo comunicato in modo tale che potete seguire in tempo reale tutte le mosse che, e tutte le gare che si faranno appunto a partire dalla partenza proprio di Piazza Politeama di questo ennesimo appuntamento con la felicissima e bellissima Targa Florio che è in diretta appunto su CRM e Piradio. Dunque, allora dovremmo adesso parlare di lavoro. Parliamo di lavoro. Volevo ricordarvi che ogni anno, ogni settimana c'è l'appuntamento con Trova Lavoro, rubrica di CRM che ogni giovedì vi mette a disposizione, grazie alla dottoressa Marina Verderaime, la possibilità di poter scegliere tramite gli indirizzi che la medesima vi detta di trovare occupazione, di fare degli stage. Oggi la formazione è importantissima e quindi seguite sempre con la massima attenzione quello che la dottoressa Verderaime nelle puntate precedenti vi ha trasmesso, vi ha indicato. Poi c'è anche un sito dove potete rivolgervi eventualmente per capire meglio. La sede di Palermo, per esempio, la potete contattare benissimo, è al 091 62 51 103, il fax 091 62 60 522. Potete chiedere tutte quante le informazioni che vi necessitano, stage in Italia. Le offerte di stage sono consultabili sul sito www.sportellostage.it. Fatelo perché troverete delle belle soluzioni. Oppure consulting individuali e di gruppo. Sportello Stage orienta incontri individuali e di gruppo di orientamento al lavoro tenuti da orientatori professionali. Professionisti. Poi c'è iniziative speciali di sportellostage.it per favorire l'incontro dei giovani con il mondo del lavoro. Operativo con il direttore, un giorno in azienda, uno stage per la terra. Formazione professionale, corsi di formazione professionale sono gratuiti. Allora, le orari di apertura della sede di Palermo sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle ore 18. Dunque, detto questo, vi ricordo il numero 091 62 51 103. Chiamatevi, risponderanno gli esperti di Sportello Stage. e vi do anche il sito www.sportellostage.it e lì avete la possibilità veramente di trovare occupazione, per come insomma le indicazioni che loro vi danno per fare lo stage prima e poi, se è il caso, insomma, la possibilità di rimanere nell'azienda a tempo determinato o indeterminato. Quindi seguite ogni giovedì l'appuntamento con Carta e Penna, e l'appuntamento con questa nicchia di possibilità di lavoro che abbiamo. Allora, tra 5 minuti ci collegheremo con la dottoressa Verderheim e quindi aprite bene le orecchie, carta e penna a portata di mano per prendere degli appunti. Allora, intanto volevo parlarvi di un'azienda che è leader nel proprio settore e sta crescendo in maniera esponenziale. Stiamo parlando di Latte Bergi. Potete assistere addirittura scusate, alla fase di mungitura fino a quella di pastorizzazione e poi dell'imbottigliamento del latte. È un latte che viene pastorizzato ma non viene né parzialmente né totalmente scremato, quindi portato a tavola veramente il gusto di altri tempi, un gusto straordinario. E poi yogurt per fare colazione, merenda, ma anche la cena davanti alla televisione. Se non volete mangiare nulla, non vi aggrada nulla, ci sono gli yogurt bianco alla frutta, ai frutti di bosco e alla banana, che hanno un gusto veramente meraviglioso. Allora, azienda Zootecnica Bergi, lo trovate sulla strada provinciale per Gelagisicolo passando Castelbuono. Un altro momento bello da poter sfruttare, visto che stiamo parlando di economie, di impossibilità a pagare le bollette eccetera, beh, per abbattere il costo delle bollette telefoniche basta chiamare l'800 111 341, ed è oppure mettersi in contatto con www.medialetta.it. Di cosa stiamo parlando? Di fotovoltaico. Per chi non è avvezzo al termine, il fotovoltaico sono i pannelli solari. E allora chiamate questa azienda, la Medialetta, in via Guglielmo 61, lo trovate a Casteldaccia, ma fate il numero verde, fate venire i tecnici, vi fanno il preventivo e fate due cose importanti: la prima, vi decurtano la bolletta del telefono, della luce, scusate, e poi il surplus di produzione che voi fate di energia elettrica vi viene rimborsato da parte dell'Enel. Ci fermiamo un attimino, vediamo se la regia, non abbiamo ancora il collegamento. Allora, quindi sì, siamo ancora attesi al collegamento. Allora, ieri sera invece a Cefalù c'è stata una stretta di mano fra Sgarbi e il nuovo sindaco di Cefalù, La Punzina. Finalmente sono stati messi da parte veleni, attacchi e contrattacchi che soltanto la campagna elettorale consente di fare. Vittorio Sgarbi dice: la nota ringrazia la città per i voti ricevuti e parla in piazza ai cefaludesi dicendo che Cefalù è libera e che il Partito della Rivoluzione continuerà la sua battaglia ad ottobre con le elezioni regionali. Missione quindi compiuta per il noto critico d'arte che, da quando si è presentato per la corsa al sindaco, non ha esitato a dire che il suo scendere in piazza era per ostacolare ed impedire l'elezione del candidato messo in campo dai poteri politici che tenevano in pugno la città di Cefalù. Pur non facendo nomi, Sgarbi si è detto contento della mancata elezione di Croci. Per la prima volta dal palco, parlando dal palco, intanto ha pronunciato esattamente il nome di La Punzina e non ha più storpiato come aveva fatto in piazza in una conversazione. Ecco, stiamo vedendo le immagini, per chi è sul web in questo momento può vedere l'incontro tra La Punzina, a cui vanno ancora gli auguri di un proficuo lavoro nel comune di Cefalù, e Vittorio Sgarbi. Dicevamo, su quanto è accaduto in questi giorni con la nascita della nuova maggioranza in consiglio e la divisione fra i tre consiglieri comunali eletti nelle sue liste. Il critico d'arte infatti non si è schierato con nessuno, dicendo che hanno fatto bene i due consiglieri del partito della Rivoluzione ad entrare in maggioranza e non ha fatto male il consigliere di Cefalù Cambia, che ha deciso di restare in opposizione. Non sono uno sconfitto né voglio polemizzare contro qualcuno. Per Cefalù, ha detto Sgarbi, resto come un patrono. Dunque, è una cosa importante, è sempre per un personaggio di cultura, è un uomo che indipendentemente dalle sue estemporaneità, quando fa dei comizi o quando viene intervistato in televisione, però è una persona di ampio respiro culturale e comunque non potrebbe far altro che bene per quanto attiene Cefalù. La Punzina sicuramente ha preso una bella patata bollente in mano, è un comune che ha dei seri problemi di bilancio e non soltanto quello, ma io credo che un uomo coriaceo, insomma roccioso come lo è La Punzina, dopo 20 anni di battaglia all'opposizione, abbia le idee chiare su come condurre in porto, e scusate se è poco, nel porto di Cefalù questa nave che è Cefalù stessa, che si era un po' arenata, che si era un po', aveva fatto un po' l'inchino, no? E si era messa un po' di fianco, a rimettere in sesto questa grande nave che dovrebbe essere pronta a ripartire, dando così il via a un futuro, si spera, di possibilità lavorative in più, una nuova primavera che consentirà non soltanto a Cefalù ma anche a tutto l'entroterra e a tutte le Madonie di ripartire insieme, partendo dal presupposto che bisogna certamente risparmiare, ma bisogna anche sapere investire, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi ancora tantissimi auguri da parte nostra al nuovo sindaco La Puncina, che dopo tanti anni di militanza in opposizione, dopo tante denunce, dopo tanto sgolarsi su cose che non andavano bene a Cefalù, finalmente ha la possibilità di far vedere a chi l'ha votato, e non solo, perché ormai La Puncina è il primo cittadino di Cefalù, quindi è il sindaco di tutti i cefaludesi, di far capire agli altri di che pasta è fatto quest'uomo. Io ho avuto il piacere di intervistarlo qualche volta qui, devo dire un uomo sobrio, alla sua preparazione, alle sue idee chiare, ma lo vedo insomma capace veramente di poter mettere a posto quello che umanamente è possibile fare. Dove non si può far nulla, ahimè, neanche la bacchetta magica dei vari maghi può fare miracoli, e sicuramente non siamo attrezzati nessuno a fare miracoli. Questo era l'incontro la settimana fra Sgarbi e La Puncina, e a quanto ci è dato da capire Sgarbi resterà a disposizione dei cefaludesi. Siamo adesso finalmente in diretta telefonica con la dottoressa Marina Verderaime. Stiamo un attimo cercando di capire se è già in onda o no, non ancora. E dicevo, la dottoressa Verderaime è in onda. Allora, dottoressa Verderaime, buongiorno. Pronto? La sentivo molto lontana, dottoressa Verderaime. Buongiorno a lei. Mi senti adesso? Oh, benissimo, forte e chiaro. Bene, grazie di questo spazio. Allora, iniziamo con le nostre offerte di stas e lavoro? Sì, come no. Benissimo, allora iniziamo con Palermo. La prima offerta viene dal settore turistico e cercano diplomati con maturità linguistica. La durata dello stas è di 4 mesi, è previsto un inserimento successivo con rimborso e chiedono un'età prevista tra i 20 e i 25 anni al massimo. Ecco. La seconda proposta invece viene da Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. È un'azienda del settore vitivinicolo e ricercano laureati in agraria con una durata di 3 mesi, con età intorno ai 25-27 anni. L'ultima offerta invece viene dal settore assicurativo. La sede è sempre Palermo, come la prima, la durata dello stage è di 6 mesi, cercano persone diplomate con diploma di maturità tra i 20 e i 30 anni e lo stage è previsto un rimborso spese. Perfetto, abbiamo altro, dottoressa? Sì, sì, abbiamo altro, perché diciamo come... Allora. Come le altre volte, noi abbiamo fatto una selezione anche questa settimana, è in edicola Donna Moderna con le nostre selezioni di stas, 400 stas, ne ho selezionati 3 per gli ascoltatori di CRM, che sono: 1, sede Roma, l'azienda è la Start People, è una società di ricerca e selezione del personale, sì. Cercano persone da inserire nella funzione personale organizzazione, laureati con laurea breve o laurea in sociologia. È previsto il rimborso spese per vedere l'offerta completa basta andare sul sito lavoro-giovani.it. La seconda offerta è dal mondo della cosmetica, è la Debora, che è un'azienda che si occupa appunto di cosmesi, cercano persone per la sede di Milano, Trade Marketing Lifestyle Beauty, laureati con laurea triennali o di primo livello. E l'ultima azienda è un'azienda importante, il pastificio Rana, di Giovanni Rana, la sede dello stage a Verona, il settore è alimentari come tutti sappiamo e la funzione è controlling and finance, cercano laureati con laurea specialistica in economia e commercio. Tutte le offerte le potete vedere sul sito sportellostage.it/donnamoderna o lavoro-giovani.it. Dottoressa, due domande. La prima, ma chi ha 53 anni come me, non c'è la possibilità di un inserimento? Vediamo, no, perché sennò siamo da rottamare, non so se mi spiego. Cioè, no, diamo anche qualche speranza, voglio dire, i giovani sicuramente sì, meritano molto di più rispetto alle vecchie compagini, però anche chi ha superato gli ANTA, insomma, diamo qualche certo possibilità? Certamente, allora noi abbiamo come nostra attività, diciamo, precisa, proprio specifica, è sui giovani, ma abbiamo anche, e abbiamo avuto anche nel passato, progetti in corso per i cosiddetti over 40 e over 50, per i quali non solo si fa una ricerca di offerte di lavoro, sì, ma soprattutto per questa tipologia di utenti, la prima cosa da fare è proprio un riorientamento, cioè andare a capire quali sono le caratteristiche della persona. Lo facciamo anche per i giovani ed è un orientamento, questo sì, lo chiamiamo riorientamento, perché si va a studiare proprio la persona, le caratteristiche, le peculiarità, la motivazione, tutto quello che, come dire, nel corso delle esperienze professionali magari precedenti non sono emerse e che invece possono essere importanti per ritrovare lavoro. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che noi in realtà per gli over 40 e 50 qui teniamo... Pronto? È forse andata via la linea. Un testo che si chiama proprio Ritrova Lavoro ed è una guida che presso la nostra sede e le nostre sedi in tutta Italia si può trovare in consultazione e la diamo anche a chi volesse come dire, prenderla per leggersela a casa. Dottoressa Verderaime, allora io la fermo un secondo perché so che state inaugurando un'altra sede. Dove? Esatto, stiamo inaugurando un'altra sede, siamo molto orgogliosi di questo passo per un traguardo, a Palermo il 4 di giugno, cioè lunedì prossimo, inauguriamo la nostra sede e le nostre attività saranno a pieno regime per aiutare appunto tutti gli ascoltatori di CRM Radio, ma tutti coloro che vogliono venire presso la sede per fare orientamento, stage, formazione, ovviamente tutti i servizi sono gratuiti. La cosa bella, sa qual è, dottoressa Verderaime, mi consenta di farle due complimenti. La prima la vedo in foto, in sovraimpressione, in televisione, quella nostra evidentemente, sul sito, sul web. La seconda cosa è, lei è sempre così dinamica, atletica e poi sempre così solare, in un momento nel quale ho fatto una disquisizione di circa 20 minuti, parlavo che non ci sono più punti di riferimento in Italia, la santa sede dei problemi, lo sport, insomma col calcio, altri problemi, la politica non ne parliamo, ma vedo invece che fortunatamente abbiamo delle persone che sono positive, che cercano di dare speranza a chi speranza oggi ne ha ben poca, ma soprattutto lo fa con enfasi, lo fa con fierezza e lo fa con un bel sorriso stampato in faccia. Complimenti, grazie, dottoressa Verderaime. Grazie, questo è il nostro lavoro e tutti noi in realtà siamo così all'interno perché crediamo molto nell'orientamento, nelle possibilità che possono essere date, anche con qualche piccolo suggerimento e anche con un po' di energia positiva. Io credo che la positività attragga positività. Brava, il bicchiere è sempre pieno, non vederlo mai sempre mezzo pieno e mezzo vuoto. Esatto. Dottoressa Verderaime, se lei non ha null'altro da aggiungere, io a malincuore mi devo congedare da lei perché devo dare la linea alla regia. Le auguro un buon lavoro, ci risentiremo sicuramente, speriamo, perché di questi tempi non si sa mai, la prossima settimana, sempre alla stessa ora, 12.45 su CRM Carta e Penna, il programma che ha questa locandina benvenuta, perché insomma è un aspetto nuovo e diamo possibilità a chi ci ascolta di poter avere delle chance lavorative per il futuro. A lei cosa devo augurare? Un buon fine settimana e perché no, faccia un bel bagno per me, se riesce ad andare a mare lo faccia lei, insomma, e quantomeno si diverte uno di noi. Noi stiamo Speriamo. Qui ancora a lavorare. Buona fine Speriamo. Settimana, grazie, buon weekend. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei, era la dottoressa Verderaime di Cerco Lavoro. Avete sentito le altre proposte, il prossimo settimana ce ne saranno ancora, quindi state attaccati a CRM, soprattutto nel programma che va in onda anche giovedì, vi ricordo dal 12 al 13 circa, che è Carta e Penne, poi riferita domenica dalle 9.30 potete riascoltare le proposte. Poi se vi siete persi la fase della radio non c'è problema, andate su www.crm.it, su repliche podcast, e potete ascoltare su quel sito tutte le puntate precedenti e quindi quindi riascoltare tutte le possibilità di lavoro che l'agenzia Cerco Lavoro vi sta offrendo. Detto questo, do la linea per pochi minuti alla regia. Al ritorno parleremo, fortunatamente o per fortuna, con l'onorevole Arricò, che era un po' oberato di lavoro stamattina, essendo neo assessore regionale al territorio e ambiente. Linea alla regia. 07 al nostro watch, siamo al termine di questa ennesima puntata di Carta e Penna. E dunque, volevo salutare anche l'ultimo sponsor che abbiamo in scaletta, il Clima Ideale di Bruno Sergi, centro assistenza caldaie della Junkers Bosch, e poi Le Blanc, e poi il sistema di depurazione gel per le acque da bere, e oppure i pannelli solari, acqua calda, circolazione forzata o a circolazione naturale delle Junkers Bosch. Il sito è www.ilclimaideale.com, telefono 0921 426 767, caldaie con biomasse di, firmate Tatano. Detto questo, c'è una notizia dell'ultimo minuto, il Sarafele Giglio, referti online. Dunque, i referti del laboratorio analisi del Sarafele Giglio di Cefalù potranno essere visualizzati, scaricati e stampati direttamente dal computer di casa senza più dover tornare in ospedale. Firmati digitalmente, hanno valenza sia sotto il profilo medico che legale. Il nuovo sistema è stato realizzato e messo in rete dai sistemi informativi dell'ospedale di Cefalù con la collaborazione della Helios Pax, un modo per avviare e avvicinare l'ospedale al territorio, ha commentato il presidente del San Raffaele Giglio, il dottor Stefano Cirillo, e andare incontro all'utenza offrendo un servizio a domicilio. È stato creato un portale, ha spiegato il responsabile dell'IT Giuseppe Franco, che consente ai cittadini di avere accesso in maniera rapida e sicura anche sotto il profilo della privacy, ai risultati subito dopo la loro elaborazione, anche quando gli uffici sono chiusi. E i passaggi per arrivare a visualizzare il reperto online sono brevi e semplici. Al momento dell'accettazione allo sportello, l'utente riceve un identificativo ID pratica che verrà richiesta per accedere al portale in area protetta, come avviene per la transizione bancaria. Insieme all'ID pratica, l'utente dovrà inserire il codice fiscale. A questo punto il sistema genera un SMS con password inviata in tempo reale al numero di cellulare comunicato dall'accettazione. L'inserimento della password completa quindi le operazioni di autenticazione per poter visualizzare, salvare o stampare il referto validato con firma digitale. Il documento resta consultabile per 30 giorni dal caricamento al sistema. Il servizio è totalmente gratuito, naturalmente, per gli utenti. Al portale consegna referti, alla cui realizzazione hanno collaborato anche Francesco Brocato, Francesco Brocato dei sistemi informativi del San Raffaele Giglio, si accede da un link pubblicato sul home page del sito internet della fondazione www.fondazionesanraffaelegiglio.it. L'attivazione di questo servizio, sottolineato il responsabile del laboratorio analisi Martino Tinaglia, è un'ulteriore dimostrazione della volontà della fondazione di venire incontro alle esigenze del territorio per una sanità sempre più a portata del cittadino. È solo un primo passo, ha concluso Franco, di un progetto più ampio che si porterà con nuove implementazioni alla consegna di tutti i referti radiologici, visite specialistiche eccetera, e del fascicolo sanitario elettronico direttamente online. Il laboratorio analisi del San Raffaele Giglio di Cefalù effettua ogni anno ben 170.000 prestazioni ambulatoriali per utenti esterni e 700.000 per pazienti ricoverati. Conta su uno staff tra tecnici, medici, biologici, infermieri e amministrativi di 18 unità. Dunque, abbiamo ancora qualche altra notizia di agenzia che ci giunge in questo momento, stanno passando in sovraimpressione sul nostro computer. Vediamo un'altra notizia importante che ci viene inviata, vediamo di che si tratta. A San Raffaele ci sono momenti di tensione in questo momento tra il presidente e il CDA della fondazione, che ha sospeso di fatto il presidente, il direttore generale Pomi, perché si era assentato, come si legge dai giornali, sono quindi delle notizie che escono fuori ufficiali, si era assentato da ben 4 mesi. Da parte del San Raffaele di Milano era giunta una nota di scioglimento del contratto di collaborazione tra il San Raffaele Giglio Cefalù e quello di Milano, e quindi che non si potessero usare più timbri e carte stampate a nome per conto della Sarraffiere di Milano. Il presidente Cirillo, nonostante le grandi difficoltà, si sta adoperando a pieno regime perché ci siano e continuano ad esserci i servizi che ancora sono posti in essere, e per la continuità, insomma, sta cercando delle collaborazioni al di fuori della Sarraffiere di Milano. Si paventa una collaborazione già di fatto con l'ISMET di Palermo, che insomma è un altro fiore all'occhiello della sanità siciliana e non solo. Stiamo aspettando ulteriori sviluppi per quanto attiene il futuro del San Raffaele. Non ci sono problemi per le maestranze, per i medici, per i paramedici, per i centri anche di day hospital, sono tutti funzionanti. Aspetteremo quindi che le acque si calmino un attimino, vediamo se il presidente insieme al CDA riescono ad avere altri agganci importanti oltre a quelli con l'ISMET di Palermo, di modo tale da avere qui ospite in trasmissione il presidente Cirillo, che in questo momento veramente è febbricitante, perché insomma non è semplice gestire una macchina così elefantiaca come quella di San Raffaele Giglio, con l'esposizione economica di tutto riguardo e soprattutto col distacco, insomma, forzato che si è avuto con il San Raffaele di Milano, visto i problemi post mortem di Don Berzè. Ancora ci sono delle altre notizie, stiamo aspettando che ci vengano confermate, e intanto ci auguriamo veramente che questo nosocomio possa raggiungere le eccellenze che già ha raggiunto, mantenerle ma averne ancora di più. Ricordiamo l'ultima intervista che il presidente Cirillo ha fatto da questi microfoni qui a CRM, parlava di aprire addirittura altri due reparti, uno di chirurgia toracica visto che c'è l'oncologia e l'altro di ottica, e dobbiamo stare vicino in questo momento al San Raffaele di Cefalù, perché sono momenti topici, sono momenti critici, non dal punto di vista lavorativo ma proprio di sistemazione dell'apparato generale, della nomenclatura stessa della struttura ospedaliera. Il San Raffaele di Milano ha e continua ad avere dei grossi problemi, soprattutto economici, e quindi speriamo che questa diatriba venga più presto chiarita e che il San Raffaele Giglio, grazie al suo CDA, grazie al suo presidente Stefano Cirillo, che tutti quanti noi che orbitiamo esternamente ma che siamo sempre vicino a San Raffaele per un motivo o per un altro, insomma, ci auguriamo che questa diatriba venga al più presto chiusa e che il San Raffaele possa continuare in serenità a darci le opportunità di curarci come ha fatto in questi ultimi anni. Quindi un in bocca al lupo e tantissimi auguri al CDA del San Raffaele Giglio, ma soprattutto al suo presidente Stefano Cirillo, a cui vanno i nostri più fervidi saluti e auguri. Dunque, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, il 3 giugno alle ore 18 comincerà in Piazza Duomo sul suo operato fino ad oggi, quindi neanche il tempo che ha iniziato a mettere le mani in questa grande macchina, ahimè, e con un bilancio un po' particolare, si metterà a disposizione dei cittadini, dando già una trasparenza su quello che sono stati i primi alle ore 20, scusate, no, alle ore 18 in Piazza Duomo. Ci sarà questo comizio appunto del sindaco Lapunzina, che già da subito comincia a dare spiegazioni ai suoi cittadini dei suoi primi passi all'interno del palazzo comunale. Ed era tutto per questa edizione, noi ci sentiamo naturalmente giovedì prossimo, stesso programma. Vi auguro un buon fine settimana all'insegna del sole, del mare se possibile, per divagarci un pochino dei problemi che ci assillano nel quotidiano. L'altro augurio che vi faccio, cercate di mangiare moderatamente e camminare, perché aiuta anche a scaricare la tensione che nel giorno lavorativo purtroppo ci vengono a caricare ad operare nel nostro cervello. Abbiamo bisogno di un po' di relax e di ascoltare belle notizie, e invece, ahimè, le notizie che arrivano non sono quasi mai belle, sono una più brutta dell'altra, però dobbiamo essere sempre positivi, come diceva la dottoressa Verderaime, essere positivi, propositivi più che positivi, e portare avanti al meglio quelle che sono le nostre giornate di lavoro, ma anche le nostre giornate in famiglia. Grazie ancora per essere stati con noi, l'appuntamento è domenica alle 9:30 per la replica. Chi volesse ascoltare il repliche podcast lo può fare su www.crm.it. E cos'altro dirvi? Buona fortuna a tutti, a risentirci giovedì prossimo. Ciao a tutti da Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di